Il culto del fallo, rimembranze della partnership e la mutilazione degli Hermes. Davanti alla maggior parte delle case ateniesi si levava una statua del dio Hermes con il pene in erezione. Scene con satiri e uomini dotati di genitali prominenti si ritrovano spesso su vasi decorati e coppe. Perfino nelle raffigurazioni di bimbi piccoli è evidente questa ossessione ateniese per il pene. Nell'arte attica, infatti, il pene dei bambini è di solito chiaramente visibile, il che ci rende noto che i bambini ritenuti degni di una rappresentazione artistica erano nell'Atene classica quasi esclusivamente maschi. Era talmente radicato quello che Kohls chiama il culto del fallo nel pensiero ateniese che, anticipando le teorie freudiane sulle mida del pene di oltre 2000 anni, Aristotele affermava che le donne erano semplicemente dei maschi incompiuti o mutilati, esseri di un ordine naturalmente inferiore e non del tutto umano, che altrettanto naturalmente dovevano essere controllati dagli uomini. L'ampiezza di questo controllo maschile e delle sue conseguenze, spesso brutali per donne e ragazze, è forse illustrata al meglio dall'usanza che consentiva ai padri di decidere se un neonato doveva essere esposto, ovvero abbandonato, affinché morisse di freddo, di fame o fosse ucciso da un animale selvaggio, perché l'uccisione diretta era a quanto pare illegale, e dal fatto che a essere esposte erano per lo più delle neonate. A mo' di attenuante, i classicisti, che accennano alla cosa, osservano talvolta che non tutti questi neonati erano divorati dagli animali o morivano lentamente di inedia, poiché alcuni venivano salvati. Ma in genere dimenticano di citare le leggi che davano ai bambini abbandonati, ritrovati da estranei, lo status di schiavi o il fatto che nell'antica Atene circolavano, come scrive Kohls, eserciti di piccole prostitute in schiavitù. Né in genere si soffermano su che cosa devono aver provato le madri di queste neonate, prive di qualsiasi potere e di qualsiasi autorità che potesse influenzare le azioni o le leggi che condannavano a morte le creature che avevano portato nel loro ventre per il semplice delitto di essere nate femmine. Ma come si legge negli scritti di Kohls, il principio prevalente in una fallocrazia è che la razza umana è essenzialmente maschile e la femmina è una mera appendice, purtroppo necessaria per la riproduzione. La naturale conseguenza di questo concetto è l'eliminazione delle femmine da tutti i processi sociali. In Grecia ciò assumeva varie forme. Una era l'imposizione del silenzio, che nell'Atene classica si otteneva confinando le donne in alloggi appositi, vietando loro di parlare e persino di apparire in pubblico se non in occasioni speciali, negando loro qualsiasi status per rivolgersi ai tribunali e indottrinandole affinché si convincessero, cosa che oggi non c'è del tutto estranea, che la donna, se alza la voce con un uomo, è una puttana castratrice. L'assoluta esclusione delle donne dalla vita pubblica era, come nota Kohls, simboleggiata anche dai veli che ricoprivano la forma femminile, il che, scrive pure, contrasta nettamente con l'esibizione fallica praticata dagli uomini. Esistono in verità attestazioni del fatto che gli antichi ateniesi portarono forse il processo di rendere mute e invisibili le donne alla sua logica conclusione. Tale era il loro accanimento nello spogliare le donne di qualsiasi senso di importanza o perfino di identità, da privare le donne di un nome non soltanto nelle registrazioni delle nascite, ma talvolta anche nella vita quotidiana. Come scrive Kohls, presumiamo che a tutte le ragazze che i genitori decidevano di allevare, che cioè non venivano esposte finché morissero, fosse dato un nome, ma neanche di questo possiamo essere davvero sicuri. I loro nomi non erano registrati nei registri della loro fratria o tribù, mentre lo erano quelli dei bambini. E a giudicare dai frammenti a noi giunti della commedia greca, di mezzo e nuova, che offrono un quadro sufficientemente realistico della vita domestica nell'Atene del IV secolo a.C., di frequenti i mariti si rivolgevano alle mogli chiamandole semplicemente donna, che in greco si traduce la lettera portatrice di bambini. L'usanza di maritare le figlie in giovanissima età serviva anch'essa a mantenere il controllo maschile, come evidenzia Socrate quando domanda a Iscomaco: «Non l'hai forse sposata quanto più giovane possibile, in modo che la si vedesse e la si udisse il meno possibile?» L'esclusione delle donne dall'istruzione, e quindi il mantenerle ignoranti, serviva pure a tale scopo. E altrettanto si può dire dell'indottrinamento cui erano sottoposte le donne, con un'ideologia in cui il dominio maschile e la sottomissione femminile, che comprendeva il sacrificio di sé, venivano glorificati. Nel regno della fallocrazia, Coles osserva le grandi differenze esistenti fra il trattamento riservato alle ragazze e alle donne nell'Atene classica e quello previsto da un certo numero di altre culture mediterranee, in cui i rapporti delle donne e degli uomini erano più alla pari. Tuttavia, in questo libro non rintraccia queste differenze in tempi più remoti, come fa invece in successivi scritti, in cui afferma che la devastazione a opera di Atene delle isole di Melos e di Samos, così come la misoginia isterica, per non dire patologica, degli ateniesi, diventano più comprensibili se considerate una reazione a culture ancora caratterizzate dal culto femminile e da pratiche egualitarie tra i sessi, e per gli ateniesi ciò costituiva una minaccia al loro predominio sul Mediterraneo. Coles non si sofferma molto neanche sull'ammirabile cultura degli Etruschi, la popolazione di lingua non indoeuropea che, come scrive la classicista Larissa Bonfante Warren, portò le arti e le lettere all'Italia e a Roma. Tra i prosperi e coltissimi Etruschi, la cui arte mostra un'impressionante somiglianza con quella della Creta minoica, probabilmente la discendenza era ancora matrilineare. In quella cultura, che conservava ancora molto del retaggio pre-indoeuropeo, le donne allevavano tutti i loro figli, anche se non sapevano chi ne fosse il padre, come riferiva, non senza disapprovazione, Teopompo, storico greco del IV secolo a.C. Fatto altrettanto scandaloso per Teopompo, le mogli partecipavano ai banchetti e levavano brindisi in pubblico, sdraiate con i mariti sui divani, come vediamo in taluni stupendi affreschi etruschi. E con grande disappunto degli osservatori androcratici del genere di Teopompo, le donne avevano una sessualità decisamente troppo permissiva, associata a un generale amore per il piacere. Come mostrano le iscrizioni sui molti specchi bronzei sepolti con le donne etrusche nelle tombe scavate nella roccia, talvolta persino più lussuose di quelle degli uomini, le donne sapevano leggere e scrivere e, a differenza delle greche e poi delle romane, portavano nomi propri. In breve, con grande indignazione morale di alcuni viaggiatori greci, migliaia di anni dopo le prime incursioni indoeuropee in Europa, le donne etrusche erano ancora sullo stesso piano degli uomini, per molti aspetti fondamentali della vita. Ma come a Creta, con il passaggio al governo miceneo indoeuropeo, dopo la conquista romana, anche in Etruria l'arte e la vita presero gradualmente a cambiare. Come scrive Bonfante Warren, a questo punto della loro storia fanno una prima comparsa le crudeltà tanto spesso universalmente attribuite agli Etruschi. A Tarquinia e a Orvieto, il mondo dei morti sostituisce il mondo dei vivi nella tomba dell'orco e nella tomba Golini, dove regnano il Persefone e l'Ade etruschi. Anche lo stile cambia, compaiono un'inclinazione alla meditazione e una melanconia inusitate. E in modo altrettanto determinato, come pure sottolinea Bonfante Warren, cambia il posto della donna. Come l'autrice scrive, non giace più accanto al marito, ma siede accanto a lui che sta sdraiato, tutta compita, secondo lo stile romano, un chiaro segno, come afferma, che la società patriarcale di Roma aveva avuto la meglio. In proposito, è istruttivo il fatto che i romani derivarono dalla Grecia classica, oggetto di grande ammirazione, molta della loro cultura e buona parte della loro mitologia, ed è particolarmente istruttivo il fatto che comprendesse anche il manifesto disprezzo dagli ateniesi per le donne, così come altri tratti del modello della dominanza, quali il militarismo e la schiavitù. Ma ancora una volta desidero sottolineare che non solamente in Etruria e in alcune isole del Mediterraneo sopravvivevano resti di più antiche culture improntate alla partnership. Come ho in precedenza notato, anche l'Atene classica aveva un'altra faccia, una faccia che, come possiamo ravvedere, ha antiche radici preistoriche. Nell'Olimpo indoeuropeo c'erano ancora potenti divinità femminili, sebbene sottomesse a Zeus. Sugli altari domestici e persino nei templi continuava il culto dell'antica dea come portatrice di vita. Il matrimonio sacro veniva ancora ripreso nei misteri greci e capitava che una donna svolgesse un ruolo importante nella vita politica, come la famosa Aspasia, compagna di Pericle, sebbene anche a questa brillante filosofa di Mileto, maestra di Pericle e di Socrate, toccò di svolgere il suo ruolo indirettamente come consigliera di uomini. Inoltre, a far da contrappunto alle decorazioni dei tanti vasi ittici che mostrano satiri e altri maschi mentre cacciano, molestano e cercano di stuprare delle donne, esistono anche illustrazioni vascolari di domestica intimità e affetto tra donne e uomini. Similmente, nell'arte attica, come poi in quella romana, si trovano immagini che raffigurano le donne con simpatia e rispetto. Alcune immagini femminili emanano un forte senso di dignità personale e talune hanno un'aura di autorità, ulteriore segno che a dispetto dei ruoli senza potere cui erano assegnate, le donne di Atene trovavano il modo di accedere a un certo potere e di ispirare amore e rispetto. Inoltre, in netto contrasto con la misoginia virulenta di molti scritti greci, esistono frammenti di poesie che idealizzano invece di svilire le donne e celebrano l'amore tra donne e uomini. In effetti, in un'opera teatrale della fine del IV secolo a.C., c'è perfino un giovane che esprime il suo rimorso per aver adottato una duplice misura nei rapporti sessuali con la moglie. Dunque, nell'arte e nella letteratura non mancano le prove che in una società in cui le leggi e i miti frapponevano formidabili ostacoli a tutto quanto si poneva sulla strada del dominio maschile e della sottomissione femminile, le donne e gli uomini desideravano ardentemente relazioni basate sul rispetto e la cura reciproci. Ancora più interessanti e rivelatori sono i segni che indicano la presenza, nell'Atene classica, di una clandestinità di resistenza fondata sulla partnership, perché troviamo tracce di periodiche proteste in commedie quali Lisistrata di Aristofane, in cui c'è qualcosa di simile all'attuale femminismo e al movimento delle donne per la pace. Particolarmente affascinante, se Coeurs non erra, è il fatto che uno degli eventi più notevoli nella storia ateniese, la distruzione nel 415 a.C. dei falli degli Hermes, le statue che in tutta Atene proteggevano le case degli uomini liberi e i luoghi pubblici, potrebbe essere stata una forma di protesta. Questo crimine irrisolto, su cui molti classicisti si sono arrovellati, accadde poco prima che Atene si imbarcasse in un'ulteriore avventura militare nella sua lunga e disastrosa guerra del Peloponneso contro Sparta. Coels lo cita come un caso assai interessante, poiché verosimilmente questa mutilazione degli Hermes fu un atto di resistenza passiva all'inesorabile guerra eroica mediante il teatro di strada. In particolare esibisce la prova che i perpetratori di questo atto simbolico contro le onnipresenti statue con tanto di pene o fallo in erezione, rappresentanti quello che Coels in modo appropriato chiama il regno del fallo, l'equivalenza sessualità, maschile predominio e violenza, furono con molta probabilità le donne di Atene stanche di tante sofferenze. Leggi, militarismo, patrilinearità e potere. Se riconsideriamo quanto sappiamo della storia antica dell'Occidente da una prospettiva che accorda pari importanza alle donne e agli uomini, sembra assai probabile l'esplosione di molte altre ribellioni collettive individuali tra le donne, e non soltanto nella Grecia antica, ma anche in epoche più lontano, nel paese di Sumer, a Babilonia, in Palestina e in tutti gli altri luoghi in cui erano ormai diventati una norma generale il rigido predominio maschile, le gerarchie autoritarie e l'istituzionalizzazione della violenza. Per la verità, se esaminiamo attentamente alcune delle leggi allora vigenti, troviamo una prova inconfutabile che le donne devono avere resistito a lungo. Non mancano infatti le leggi che puniscono nei modi più terribili e brutali qualsiasi insubordinazione delle donne. Il sumerologo Samuel Noah Kramer riferisce che per il diritto sumero, se una moglie non faceva figli perché rifiutava qualsiasi rapporto coniugale con il marito, poteva essere buttata in acqua e annegata. Kramer scrive anche di un testo sumero, da cui apprendiamo che se una donna diceva a un uomo, qui il testo è inintellegibile, le si spaccavano i denti con mattoni ardenti. E poi questi mattoni su cui veniva scritta l'infrazione di cui si era resa colpevole erano appesi alla grande porta della città finché tutti vedessero. È dunque ragionevole pensare che se le donne non avessero continuato a ribellarsi, gli uomini non avrebbero emanato leggi tanto crudeli, perché le leggi erano ovviamente volte a sopprimere qualsiasi ribellione individuale e collettiva tra le donne e per giunta a ad accettare ogni possibile sfida e persino ogni lagnanza contro la dominazione domestica e sociale degli uomini. Oppressive gerarchie di controllo degli uomini sulle donne o degli uomini sugli uomini sono state lungo tutto l'arco della storia sostenute dalla forza e dalla paura, cioè infliggendo o minacciando di infliggere dolore. Non sorprende dunque ritrovare leggi tanto brutali in una società in cui forse le donne ancora rammentavano una precedente epoca di più grande libertà, come dimostra il termine sumero amagi, che stabilisce un nesso tra libertà e ritorno alla madre. Sorprende invece che persino di fronte a leggi come incredibilmente brutali, Sumer, che emerse intorno al 3200 a.C., fu alle recenti scoperte archeologiche che indicano il Neolitico come la vera culla della civiltà, universalmente esaltato dagli storici come il primo insediamento veramente civilizzato del mondo antico. E altrettanto sorprende che il famoso codice babilonese di Hammurabi sia tuttora esaltato dagli studiosi, che lo considerano un importante progresso sulla via della civiltà, sebbene preveda per metà dell'umanità un trattamento che secondo nessun metro può essere propriamente detto avanzato. Contiene infatti leggi che prescrivono che una moglie chiaramente trascurata e non parsimoniosa venga affogata e sanciscono che la moglie indegna possa essere trasformata in schiava nella sua stessa casa se il marito si prende un'altra moglie. Le leggi sono indici estremamente utili dei comportamenti considerati in una data epoca e in un dato luogo accettabili o inaccettabili. Ovviamente non ci dicono come in realtà la gente si comporta, ma ben più chiaramente delle opere letterarie e storiche, le leggi ci dicono quali atteggiamenti e quali comportamenti coloro che promulgano le leggi e hanno il potere di farle rispettare vogliono incoraggiare e scoraggiare. Siccome la loro funzione primaria è quella di imporre la conformità, razionalmente le leggi sono sostenute dalla forza o dalla minaccia della forza, come i giorni nostri dal potere della polizia, e le leggi stabiliscono i modelli dei rapporti sociali, sessuali ed economici che la gente considera o dovrebbe considerare normali. Dunque, se analizziamo le leggi sumere e babilonesi che regolano i rapporti sociali, sessuali ed economici tra donne e uomini, scopriamo che, come le leggi ateniesi, erano ampiamente destinate a dare agli uomini un potere quasi assoluto sulle donne in tutte e tre le sfere. E vediamo pure che rientravano in un più ampio sistema di rapporti sociali, sessuali ed economici, tenuto insieme da una forte istituzionalizzazione della violenza, violenza contro le donne e i bambini nella sfera privata e guerre, torture ed esecuzioni capitali nella sfera pubblica. Queste leggi, insieme con la morale che imponevano, svolsero un ruolo di primo piano nel processo, che provocò la fondamentale trasformazione dei rapporti sociali e sessuali che abbiamo esaminato. Il passaggio dal sistema di discendenza per linea materna, matrilinearità, a quella per linea paterna, patrilinearità, fu una parte molto importante di questo processo. Portò all'invenzione della monogamia unilaterale, insieme con la prostituzione, l'adulterio e l'illegittimità, nonché a severi castighi inflitti alle donne per qualsiasi forma di indipendenza sessuale o semplicemente personale. Inoltre fu un processo che, iniziato con le prime incursioni dei nomadi della vecchia Europa e in Turchia, proseguì con l'istituzionalizzazione e la glorificazione della guerra. Fatto ancora più importante per la questione che ci sta a cuore, fu un processo in cui fu radicalmente ridefinita la sessualità, non solo dalle donne, ma anche degli uomini. Desidero a questo punto fare una pausa per sottolineare ancora una volta che la radicale trasformazione sessuale, sociale e ideologica che accompagnò la graduale perdita di potere personale e di status culturale delle donne non accompagnò del tutto naturalmente, come talvolta si afferma, lo spostamento verso forme più complesse e centralizzate di organizzazione sociale. Ne troveremo una prova impressionante in una seppur succinta comparazione delle civiltà di Sumer e della Creta minoica. Come osserva l'antropologo delle culture Ruby Rörle Kleewit, nella Creta minoica il commercio non fu sostituito dalla conquista militare quale mezzo principale per avere accesso a importanti risorse. Le strutture dei clan basati sulla consanguineità non furono radicalmente trasformate per servire lo Stato e le donne godevano ancora di uno status elevato in una società complessa già centralizzata. Per contro, nel paese di Sumer, le strutture parentali furono radicalmente trasformate per adattarle a un sistema rigidamente gerarchico, sempre più fondato sulla proprietà privata, e la centralizzazione del potere politico nelle mani dei capi militari. E le donne furono espulse dalla politica e private di qualsiasi potere decisionale. Non si vuole con questo affermare che anche le donne sumere furono del tutto spogliate del potere e dello status di cui godevano. Per esempio, le donne continuarono a svolgere il loro ruolo sacerdotale, ma gradualmente persino questo ruolo mutò. Così, ai tempi della terza dinastia di Ur, 2278-2170 a.C., e ciò riflette i cambiamenti radicali sopravvenuti nella visione dei rapporti sessuali. Le sacerdotesse venivano dette concubine degli dei e prostitute del tempio. Come osserva Rörli Clivit, era uno specchio degli harem degli uomini che allora governavano Ur. L'organizzazione delle sacerdotesse del tempio, il Salme, scrive, era affidata alla sacerdotessa che era la vera sposa del dio e che poteva essere la sorella maggiore del sovrano regnante. A livello più basso della gerarchia c'erano molte normali prostitute del tempo e al centro c'erano le donne dette concubine degli dei, come riferisce Rörli Clivit. Spesso donne di sangue reale cui era ancora permesso generare i figli di padri ignoti e che ancora possedevano delle proprietà e conducevano in proprio delle attività. Nell'antica Palestina, che fa il suo ingresso nella storia dell'Occidente all'incirca 2000 anni dopo Sumer, è provato che le donne persero status e potere per gradi. Il fatto che persino nell'Antico Testamento, peraltro abbondantemente riveduto e corretto, donne quali Deborah, Miriam e Hulda ancora occupino posizioni prestigiose come giudici e nel caso di Hulda come profetesse, potrebbe indicare che anche in Palestina le antiche norme cambiavano molto lentamente. Tuttavia, nell'insieme, come quasi ovunque nel mondo antico, le posizioni di leadership, ovvero di potere temporale e spirituale, erano istituzionalmente riservate agli uomini. Si sarebbe ancora dato il caso di donne che cercavano di violare queste norme, ma si trattava ormai soltanto di eccezioni che riuscivano a usurpare ruoli maschili da cui le donne, assieme alle qualità dolci o cosiddette femminili, quali la non violenza, la cura e la compassione, erano in genere escluse. E mentre la sessualità maschile era ovunque esaltata, nelle litanie dell'Antico Testamento per i molti bambini che generava, o nelle effigi greche o romane di maschi con il pene in erezione, la sessualità femminile era sempre più condannata. E inoltre il brutale controllo degli uomini sulle donne, in particolare sulla loro sessualità, trovava una giustificazione sempre più valida nella necessità di proteggere la castità, l'onore, e soprattutto la morale delle donne e della comunità. L'economia e la politica della morale e della dominanza. Ai giorni nostri, dai pulpiti delle chiese, delle moschee e di altri luoghi di culto di tutto il mondo, gli uomini predicano una morale sessuale ispirata da Dio. Per esempio, le leggi dell'Antico Testamento, che regolano severamente la sessualità femminile, ci vengono ancora presentate come precetti morali. Ma se ci fermiamo a riflettere su queste leggi, dobbiamo domandarci quali intenti si proponeva una morale che imponeva tanta brutalità. Per esempio, le giovani potevano essere lapidate a morte se si scopriva che avevano perso la verginità. Perché solamente ponendoci questa domanda comprenderemo che tali leggi servivano a mantenere, ancora una volta attraverso la somministrazione o la minaccia di punizioni corporali, rapporti dominante-dominato tra uomini e donne. Al di là di ciò, ci accorgeremo che erano intese a regolare tra gli uomini le transazioni economiche in cui il corpo delle donne era essenzialmente una merce sessuale, di cui gli uomini potevano disporre a piacimento o che potevano addirittura distruggere. Come apprendiamo dalle leggi e dalle storie bibliche, per esempio il ben noto racconto di come Giacobbe acquistò da Labano le sue mogli, lavorando per lui 7 anni per ogni moglie, normalmente gli uomini vendevano le figlie ai futuri mariti. In altre parole, il matrimonio era fondamentalmente una transazione commerciale tra uomini. Ma per essere smerciabile, la figlia doveva essere vergine. Dunque, in sostanza, una donna nubile o piuttosto una bambina, poiché era d'uso sposarla in giovanissima età, come tuttora accade in alcune regioni del Medio Oriente, non più vergine, era merce avariata. Conseguentemente, la lapidazione delle ragazze disonorate non era soltanto un modo di controllare le donne con il terrore, ma anche di fornire un avvertimento esemplare su quanto potevano aspettarsi se uscivano dal seminato. Ed era inoltre una misura pratica per distruggere un bene ormai privo di valore economico, il che significava risparmiare al padre altre spese per il suo mantenimento. Similmente, le leggi bibliche sull'adulterio, che decretavano l'uccisione sia dell'adultero sia dell'adultera, servivano da regole economiche. Provvedevano al castigo di un ladro, l'uomo che aveva rubato il bene di proprietà di un altro uomo, e alla distruzione del bene avariato, la moglie, che aveva portato il disonore al marito. Forse, particolarmente rivelatrice, e se ci riflettiamo, orripilante, è l'assenza nella Bibbia di una morale, e tantomeno di leggi, che ritenga gli uomini responsabili per aver deliberatamente e a sangue freddo causato il disonore delle donne e delle bambine su cui detenevano un assoluto controllo. Non c'è infatti traccia di punizione, nemmeno di critica per Lot, che pure offrì le giovani figlie alla plebaglia che minacciava i due ospiti accolti nella sua casa. Al contrario, quando i due ospiti si rivelano in realtà angeli inviati da Dio, Lot viene addirittura ricompensato. Quando Sodoma e Gomorra vengono distrutte, apparentemente a causa di perversioni sessuali invise a Dio, per strana ironia solamente Lot e la sua famiglia, moglie esclusa, vengono risparmiati. Né si trova cenno di castigo o di censura in una storia simile del libro dei Giudici, 19, dove leggiamo di come un padre offre agli uomini tumultuanti, che minacciano un ospite della sua casa, sia la giovane figlia, una vergine, sia la concubina dell'ospite medesimo. Proseguendo nella lettura, apprendiamo che l'ospite, un levita o membro del clan sacerdotale, effettivamente spinge fuori la sua concubina e l'abbandona nelle mani degli uomini della tribù di Beniamino, i quali tanto brutalmente la violentano a più riprese, per tutta la notte, e quando il suo padrone il mattino dopo esce per mettersi in viaggio, la trova ormai cadavere. Non si accenna minimamente in questa storia biblica alla possibilità che il levita, consegnando la sua concubina a uomini pronti a stuprarla, violasse un qualche ditto legale o morale. Inoltre, se continuiamo la lettura, da Giudici 19, 29 ai Giudici 20 e 21, si dispiega una storia ancora più sinistra, da cui emerge con cristallina chiarezza che secondo i codici biblici della morale, dell'onore e della legge, gli uomini che hanno stuprato e ucciso la sfortunata erano considerati colpevoli di un crimine, non contro la vittima, ma soltanto contro il suo padrone e la tribù di quest'ultimo. Offeso perché uomini di un'altra tribù, quelli di Beniamino, hanno osato privarlo della sua proprietà sessuale, sebbene sia stato lui in persona a consegnare loro la concubina, il levita trama la sua vendetta. Nel libro dei Giudici 19-29 leggiamo come tornato a casa il levita, afferrato il coltello e preso il cadavere della concubina, ne fece 12 pezzi che mandò per tutto il territorio di Israele. Ricevuto questo messaggio, dopo preghiere, negoziazioni e preparativi, tutte le tribù di Israele decidono di muovere guerra ai beniamiti. Infine, dopo alcune sanguinose battaglie in cui più di 5.000 uomini persero la vita e le città dei beniamiti furono distrutte, e dopo l'uccisione di tutte le donne e di tutti i bambini della tribù di Beniamino e di un gruppuscolo di uomini, i vincitori presero una decisione ancora più bizzarra e altrettanto barbara. Per rimediare al fatto che i beniamiti sopravvissuti si ritrovavano senza mogli, i leviti decisero di uccidere tutti gli abitanti di Jabes e di Galaad, risparmiando soltanto 400 giovani vergini che, secondo Giudici 21-14, furono date come spose ai beniamiti sopravvissuti come offerta di pace e riconciliazione. È difficile credere che con simili contenuti ci siano ancora individui pronti a dirci che tutto nella Bibbia è la parola di un Dio onnipotente, di un Padre giusto e misericordioso, ogni ordine del quale è legge divina. Ma forse non è tanto strano se rammentiamo che neanche tanto tempo fa santi uomini cristiani crearono l'Inquisizione, indissero le crociate, ordinarono torture e mandarono a rogo molte migliaia o forse milioni di donne, e che una guerra cronica fra tribù continua nel vicino Oriente ancora ai giorni nostri. E se rammentiamo ancora che onorevoli musulmani come i loro avi androcratici tuttora spesso uccidono, persino ricorrendo talvolta alla lapidazione, le donne, loro figlie, sorelle e madri, per averli disonorati. Ancora una volta, desidero sottolineare che questa brutalità non è una caratteristica intrinseca di qualsiasi gruppo etnico o religioso, che si tratti di antichi ebrei, cristiani del Medioevo o di arabi moderni. La questione di cui ci occupiamo riguarda piuttosto le usanze androcratiche o della dominanza. Desidero anche sottolineare che il riconoscimento delle barbarie e degli elementi della dominanza presenti nella tradizione giudaico-cristiana non deve impedirci di vedere che essa contiene anche importanti insegnamenti volti alla partnership. Né dovremmo concludere, da questi passi dell'Antico Testamento, che presso gli ebrei non esisteva amore e rispetto reciproco tra uomini e donne. Se li ritroviamo, tuttavia, non è a causa, ma nonostante gli editti e le leggi morali, a supporto di un rigido controllo maschile sulle donne e sulla sessualità delle donne, perché ovviamente tali controlli non possono servire da base per l'amore e il rispetto reciproco. Per contro, tali controlli e i valori familiari che inculcano costituiscono un grosso ostacolo non soltanto al rispetto reciproco e all'amore tra donne e uomini, ma anche alla costruzione di una società più illuminata, in cui la dignità umana e i diritti umani siano veramente tenuti in grande stima. Infatti, come abbiamo visto nel carattere guerresco e autoritario delle società antiche che abbiamo esaminato, e come osserveremo in insediamenti contemporanei nella parte seconda del libro, la riduzione effettiva di metà dell'umanità a poco più di un insieme di animali domestici che gli uomini possono usare e di cui possono abusare, è stata, attraverso tutta la storia dell'umanità, la pietra angolare di un modo in genere indifferente, disumano ed estremamente doloroso di organizzare i rapporti interpersonali, intertribali e internazionali.